Sempre più caldo, noi siamo arrivati alla fine. Abbiamo ancora una canzone. Con questa vi vogliamo salutare, ringraziarvi tutti. Ringraziamo Giamendo, Creative Common e tutti quanti voi. Questo pezzo si chiama Aria. Facce di uomini senza parole, il mio paesaggio è un quadro infernale, pieno di gente che non capisce più niente. Ed ecco ancora quella nostalgia, no, mentre l'aria se ne va. Come con te, con noi, con ciò che resta di noi. Ringraziamo per questa splendida serata. Il sistema liquido sono alla batteria Marco Busa. Al basso Luca. Alla chitarra Vittorio del Signore. All'altra chitarra e alla seconda voce, Francesco Belviso! Alla voce, Natale Belviso! Con questo vi salutiamo! Ciao a tutti, alla prossima!